Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Al campo, per la prima volta nella mia vita, sono andata in piscina e mi sono divertita molto. Di notte sovente giocavamo in giardino con frisbee illuminati e di giorno in casa facevamo attività che generalmente si fanno all'aperto. I miei nuovi amici mi hanno fatto capire che, pur avendo la mia malattia, si può vivere tutto sommato una vita normale. Sono Fatima Tumbi, vivo a Cornier, ho un diploma di tecnico della gestione aziendale. Attualmente sono iscritta all'Università di Torino come scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro. Sono al primo anno. Sono le 16:06 di un giorno che non è un giorno qualunque, perché è il 29 di febbraio, in questo caso del 2012. È una giornata per cui sicuramente da quando vi siete alzati ne avete sentite dire di tutti i colori, no? Per cui c'è un articolo, leggevo un articolo di Severgnini che parlava di quelli che sono nati il 29 di febbraio e quindi festeggiano gli anni una volta ogni 4 anni e cose di questo tipo, oppure che si lavora un giorno in più per pigliare lo stesso stipendio. Questo giorno però è un giorno particolare perché è stato, non a caso, è stato scelto come il giorno simbolo delle malattie rare, cioè di quelle malattie che non sono particolarmente comuni fra le persone e che quindi hanno più problemi per quanto riguarda la ricerca e più problemi anche per quanto riguarda la guarigione. Sembriamo improvvisamente essere benessere di Nicoletta Carbone, invece no, siamo sempre Voi siete qui e raccontiamo sempre delle storie che le persone ci inviano a voisietequi@radio24.it, cioè le persone, voi. Per le persone, così sembra che ci siano delle persone là fuori che inviano le storie, cioè voi, quando vi va, scrivete una storia di un episodio della vostra vita, ce la mandate e noi la raccontiamo. Però dicevo, questa redazione che sembra sempre fare le cose a muzzo, cioè sembra di tutto il palinsesto di Radio 24 quella che più di tutti, per colpa mia ovviamente, non di Tiziano e di Margherita, dicevo, di tutti i programmi di questa radio sembra fare le cose più a caso, invece oggi non ha fatto così. Oggi ha scelto dei racconti che sono arrivati il racconto di Fatima, che è un racconto particolare perché Fatima soffre di una malattia particolare, che è una malattia rara, e abbiamo fatto veramente bingo, siamo riusciti a mettere insieme queste due cose, cioè il giorno in cui appunto si celebrano queste malattie, in particolar modo è la quinta giornata delle malattie rare, per essere precisi, e la storia di Fatima. La storia di Fatima è una storia particolare perché, oltre appunto a soffrire di una malattia molto molto rara che ha a che fare con la luce del sole, per cui lei, come tutti i bambini e le persone che soffrono di questa malattia che si chiama xeroderma pigmentoso, non può uscire alla luce del sole se non con migliaia di precauzioni e di protezioni, e quindi di fatto è come se vivesse una vita al contrario, per cui il buio le è amico e la luce no. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma è Matteo Caccia, io sono qui. C'è anche una mail che è sempre quella, che è voisietequi@radio24.it, perché non bisogna e non serve, fortunatamente per chi non ce l'ha, avere una malattia così rara che ti ribalta il modo di vivere. Si può però avere provato sulla propria pelle la possibilità di vivere una vita alla rovescia, qualsiasi cosa significhi questo per voi. Vi faccio un esempio, perché Luisa invece ha scritto sul profilo Facebook e ha capito perfettamente. Immagino una mattina di dicembre di essere l'unica ad entrare a scuola quando tutti, circa 600, sono fuori a scioperare, e tu fai quel percorso dal cancello al portone coperta di insulti e ti senti il cuore a mille, ti senti leone in mezzo a pecore, ti senti nel giusto, forte delle tue idee e della tua coerenza. Oltrepassi la soglia del portone, emozionata e soddisfatta, e ti senti presa per cretina dal vicepreside perché per colpa tua la scuola dovrà restare aperta e gli insegnanti presenti. Ecco, devo dire che Luisa hai fatto veramente strike, cioè sei riuscita a beccarti la vita al contrario rispetto ai tuoi colleghi, agli studenti e pure dei professori. Poi ancora Simone, stai parlando dei camerieri, veramente non solo dei camerieri, però se vuoi, i camerieri di solito lavorano quando gli altri festeggiano, ma non solo. E poi Luciano, Bruno, Bruno fa i complimenti a Luisa, eccola qua Lucia. Io sono qui, la mia vita è tutta al contrario, ho lavorato quando gli altri erano in vacanza, ho alzato la mano quando tutti chinavano la testa, ho detto nero quando gli altri dicevano bianco, sono me stessa quando sono quando alcuni sono altri. Questa non l'ho capito, Lucia. Ah, che tu sei te stessa quando gli altri fanno gli altri. È giusto così? Vabbè, Lucia, t'ho persa un po' su questa. Non capisco quando è che gli altri fanno gli altri. Cioè, gli altri fanno gli altri perché sono altri, giusto? E poi gli altri decidono di essere gli altri e non se stessi, oppure decidono di essere gli altri e non te. Però facendo così veramente non usciamo più. Stefania, immagina di creare l'advertising, cioè la pubblicità, per la campagna Natale, quando fuori ci sono 40 gradi, e la campagna estate, quando fuori ce ne sono meno 10. E quando si vedono in città, tu vomiti, perché hai lavorato per mesi e non le puoi più vedere. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. La vostra vita è al contrario. La vita è al contrario, però, che mi ha colpito di più di tutte le storie che sono arrivate, è quella di Fatima. La scorsa estate ho fatto un viaggio. Sono andata negli Stati Uniti. Ero eccitata e preoccupata come sempre, prima di un viaggio. Non ero mai stata lontano dalla mia città e il volo è stato lungo e complicato. Lungo perché non avevo mai volato per 10 ore di fila senza fermarmi. Complicato perché io non posso espormi alla luce del sole. Io sono affetta da xeroderma pigmentoso, che è una malattia caratterizzata da un'ipersensibilità ai raggi solari, ultravioletti, e praticamente mi impedisce di uscire, di uscire di giorno, e in più anche andare ad esempio all'università, non posso seguire le lezioni. È un po' come se vivessi una vita al contrario. Quando gli altri sono svegli, io dormo. E viceversa. E io non ho problemi particolari, A vedermi sto bene. Non sono diversa dalle altre ragazze della mia età. È solo che la luce del sole mi fa male. E quindi sono costretta a stare il più possibile al buio o sotto il raggio di una luce artificiale. Per me è difficile stringere amicizia con qualcuno dal momento che sono sveglia quando gli altri non lo sono. E sono in giro quando gli altri sono in casa. Studio e faccio tutto quello che fanno le ragazze della mia età, solo che lo faccio nella parte opposta del giorno rispetto a loro. Poi ho scoperto che esisteva un posto dove si trovavano tutti i ragazzi che vivono la mia stessa vita. Ci arrivano persone da tutte le parti del mondo, perché lì la vita è ribaltata, viene vissuta come la viviamo noi. Si chiama Camp Sundown, che vuol dire il campo del tramonto. È una grande casa, con le finestre schermate dai vetri che proteggono dai raggi ultravioletti. Il campo si tiene tutte le estati ed è stato creato da due persone meravigliose che si chiamano Dan e Karen. Dan e Karen hanno una figlia che soffre la mia stessa malattia e nel 1996 hanno creato, come se fosse una specie di rifugio per le famiglie che hanno figli con questo problema, il loro campo. Poi nel 2003, grazie a tante persone che hanno donato parecchi soldi, sono riusciti ad aprire un vero e proprio campo dove ospitare più famiglie. Si trova nello stato di New York, in un paese che si chiama Craryville. All'inizio, ammetto, avevo quasi paura ad andarci. Non sapevo come mi sarei trovata in mezzo a persone simili a me. E poi io non parlo inglese, quindi temevo che mi sarei sentita sola e isolata. Poi invece sono partita. Ed è stata una delle più belle esperienze della mia vita. Allora, al campo mi sono divertita molto perché ho conosciuto tante persone che hanno il mio stesso problema. Il ricordo più bello, sinceramente, quando sono andata in piscina, perché sono stati tutti gentili, hanno giocato con me a palla. Katie voleva pure insegnarmi a nuotare. Grazie a Camp Sundown ho potuto conoscere persone che hanno il mio stesso problema, lo xeroderma pigmentoso, e farmi degli amici in grado di capire le mie difficoltà. Ho potuto vedere come vivono, in che modo affrontano i loro problemi e ho potuto ascoltare le loro storie. Al campo per la prima volta nella mia vita sono andata in piscina e mi sono divertita molto. Di notte sovente giocavamo in giardino con frisbee illuminati e di giorno in casa facevamo attività che generalmente si fanno all'aperto. I miei nuovi amici mi hanno fatto capire che pur avendo l'XP si può vivere tutto sommato una vita normale, come tutte le altre persone. Si può studiare, lavorare e crearsi una famiglia. Non è stato facile per loro raggiungere questi traguardi. Alla fine però ce l'hanno fatta, cosa che a me sembra ancora impossibile. Today I let my mind flow in words. I could barely understand myself. I woke up late, overslept again. And I'm still wasting my time. When I wish you could allow this feeling that I saw. When I looked into your eyes. Come closer if you want. I must admit that I might like kissing you. Might like kissing you. Might like kissing you. Nella puntata di oggi vi voglio chiedere uno sforzo particolare. Ho bisogno di un po' più di attenzione rispetto a quanta ne mettete di solito ascoltando la radio o anche solo ascoltando questo programma. Mi piacerebbe che alzaste un po' il volume della radio per sentire con precisione tutto quello che vi dico e per concentrarvi solo su questa storia per i prossimi 5 minuti. Poi potete fare quello che stavate facendo. Ecco, fate così. Immaginate per un attimo di vivere una vita al contrario. Qualsiasi cosa voglia dire. Per cui immaginate di lavorare quando gli altri sono in vacanza, ad esempio. Immaginate di mangiare tutto quello che gli altri scartano, di avere gusti che nessuno incontra. Immaginate di vestirvi in un modo che agli altri sembra ridicolo, o di desiderare quello che gli altri scartano e di gioire quando gli altri soffrono. So che sembra quasi fantascienza, però state con me ancora un attimo e fate uno sforzo maggiore. Adesso provate a pensare di parlare una lingua che nessuno parla, o di avere bisogno per vivere di respirare una soluzione gassosa che non sia l'aria, ma qualcosa che è dannosa per tutti gli altri esseri umani, mentre è vitale per voi. Ok, se siete ancora qui, ora forse vi sarà più semplice immaginare la vita di Fatima, e cioè di dormire quando gli altri vivono e di vivere quando gli altri dormono. Ecco, provate a immaginare, se fosse così, avreste gli stessi amici che avete oggi, avreste la stessa compagna, fidanzato, la stessa moglie, lo stesso marito. Guardate un secondo i vostri figli, se sono lì a fianco a voi, o immaginate il loro viso se sono lontani. Se la vostra vita fosse ribaltata, loro sarebbero così come sono, o magari non ci sarebbero nemmeno. E la vostra attività quale sarebbe? Poi cosa fareste per divertirvi, per svagarvi? O come vivreste i momenti di lavoro, quelli di vacanza? E soprattutto cosa significherebbe per voi il giorno e la notte? Quella di Fatima è una condizione che si avvicina quasi all'invisibilità. Esserci, ma non essere vista. Vivere una vita scandita dai ritmi di una vita normale, ma spostati in un tempo sospeso, il tempo del buio. Io quando ho letto la sua storia mi sono informato su questa malattia. Ho visto il documentario che è stato girato un paio d'anni fa e a cui ha partecipato anche Fatima. Ed è girato proprio là, negli Stati Uniti, a Camp Sundown. L'idea di vivere una vita al contrario è una cosa che le persone sane possono solo immaginare, oppure filtrare attraverso le lenti di qualche piccola e minuscola esperienza personale, no? Tipo lavorare il sabato e la domenica, o la notte invece che il giorno. Cose piccole e magari temporanee, che però in alcuni momenti della nostra vita ci hanno fatto pensare di essere più o meno fortunati degli altri. Però l'idea che il sole sia un nemico e che la luce possa farci del male è uno stravolgimento tale che davvero nessuno di noi può realmente immaginarlo. Nel suo racconto Fatima scrive che dalla sua esperienza negli Stati Uniti ha capito che anche nelle sue condizioni si può vivere una vita normale. E io, da quando ho scoperto di lei e delle persone che vivono come lei, ogni tanto voglio provare anch'io a vivere una vita al contrario. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is color. Headache, gray day sleeper. La storia di Fatima è una storia che mi ha colpito chiaramente perché è la storia di una persona che ha un problema serio che le impedisce di fare delle cose che sono le cose normali che facciamo tutti noi. E quando ti capita di sentire una persona che non può fare la base delle cose semplici che ti capita di fare, ti vengono delle riflessioni riguardo alla tua vita e a quella delle persone che ti stanno accanto. Poi io ho visto anche il film di cui a breve vi parlerò, magari parlerò anche con lei, quindi io Fatima ho avuto anche la fortuna di vederla in faccia, per cui se vi capita di vedere il film che si chiama The Dark Side of the Sun potete vedere anche lei. Adesso però ho semplicemente voglia di sentirla al telefono. Pronto Fatima? Pronto. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, no, dammi del tuo, sì. Fatima, dammi del tuo e non del lei, ok. Senti, grazie innanzitutto per aver scritto la tua storia e per essere qui in onda a Radio 24. volevo chiedere, la prima cosa che volevo chiederti è com'è una tua giornata tipo? Come funziona? A che ora ti svegli? Che cosa fai? Quanto stai in casa e quanto puoi uscire? Immagino dopo il tramonto, giusto? Sì, alle 6 di sera posso uscire. E a che ora ti svegli la mattina, Fatima? Io verso le 9:30-10. E chiaramente tu stai in una casa che ha le finestre oscurate, giusto? Sì. Quindi sì, hanno il filtro. Ah, ok, quindi c'è il vetro ha un filtro per trattenere i raggi UV, giusto? I raggi UV, sì. Ma è una specie di pellicola trasparente che non impedisce la luce di entrare, ma solo i raggi UV che a me provocano problemi come tumori alla pelle, agli occhi, infatti la vista si abbassa continuamente e così via. Ho capito. E tu ci sono delle occasioni in cui puoi uscire comunque alla luce del sole? Cosa devi fare? Devi metterti delle creme protettive o una maschera, qualcosa? Io utilizzo creme protettive, una specie di casco che ultimamente mi è stato donato dalla fondazione americana Calm Down. Per il resto le mani ti metterai dei guanti, immagino. Sì, dei guanti speciali che non lasciano oltrepassare i raggi UV, ci sono proprio dei vestiti apposta. Ho capito. Solo che non si trovano qua in Italia. Senti, quindi tu hai studiato, adesso tu hai 22 anni, mi dicevi, giusto? Sì. 22. Quindi hai fatto le superiori, le scuole superiori e adesso sei all'università. Giusto. Però segui l'università da casa, giusto? Sì. Perché appunto non... Io da sola, sì. Studi completamente da sola. Ma non hai... Hai degli amici che vengono da te? Come si gestisce la vita sociale quando devi rimanere in casa tutto il giorno? Cioè, riesci ad avere degli amici che vengono a trovarti? Oppure vi trovate in dei luoghi particolari? O vi trovate solo la sera? Ma la sera, ma raramente. Perché comunque non riusciamo a vederci sempre. Comunque per mantenere un rapporto di amicizia, comunque... Devi avere qualcosa in comune con cui fai ogni volta. Ho delle amiche, non è che non ce le ho, però ci sentiamo raramente. Senti, invece gli esami dell'università come fai a farli? Perché immagino che tu la segui online, no? All'università, quindi al computer. No, non la seguo online, la studio da sola e vado a fare gli esami. E riesci a farli gli esami? Vai con la maschera, no, giusto? No, va molta difficoltà. No, non posso guidare di giorno io. Perché la luce del sole mi dà fastidio agli occhi e non riesco a guidare, cioè combinerei solo incidenti, quindi meglio che non guido. Ok, quindi scusami, gli esami cosa fai? Ti fissano degli orari particolari apposta? Dipende, li scrivo quando sono pronta, vado ad affrontare un esame, chiamo l'insegnante, gli invio un'email in cui gli spiego la mia situazione e gli dico quando sarebbe... Più comodo per lui. Sarebbe per lui per fissare una data per cui farmi fare l'esame. Senza la luce, possibilmente. Sì, hanno individuato un'aula in cui non ci sono finestre. Ok. Senti, tu hai già fatto domande di lavoro? Hai già chiesto a qualcuno? Insomma, hai trovato difficoltà oppure non hai ancora cominciato? Vuoi prima finire l'università? No, ho già incominciato a fare delle richieste. E come va? Sono da 4-5 anni che rifaccio gli scherzi, ma niente. Perché è complicato mettere insieme le due cose, giusto? Cioè, il tuo problema. È difficile, perché comunque loro non capiscono il mio problema. Il mio problema è che nessuno mi capisce, perché comunque vedono che comunque non hai problemi fisici, sei intelligente, non hai problemi intellettivi, non hai problemi, non sei cieca. Cioè è un problema che non si vede, questo mi stai dicendo. È un problema che non si vede, cioè loro ti vedono anche se loro ti offrono un lavoro, comunque non prendono in considerazione le misure che dovrebbero che ti farle. Servono. Io trovo molto difficile. Lo immagino, tra l'altro... devo molto rifiutare molte proposte di lavoro. Facciamo così, guarda Fatima, di solito questo non è un programma in cui io faccio appelli perché semplicemente racconto delle storie. Se però all'ascolto c'è qualcuno che ha la possibilità di offrirti un lavoro che sia compatibile con il tuo problema, e cioè che sia al buio o che abbia delle finestre schermate, tutto quello che è possibile fare, ci contatta e noi lo mettiamo in contatto con te e magari succede qualcosa. Grandioso. E io lo spero. Fatima, io ti ringrazio ancora tantissimo, ti faccio in bocca al lupo. Grazie a te. A te, brava, ce l'abbiamo fatta. E grazie. Tutti quelli che non l'hanno visto, guardino The Dark Side of the Sun, che è un film bellissimo, racconta una storia che pochi conoscono e racconta anche in parte la storia di Fatima. Fatima, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ti ringrazio. Ciao, grazie. Buona giornata anche a voi. Ciao, ciao. Voi siete qui. It's scary out here at night. Yeah. The animals. Oh yeah, we have coyotes, we have mountain lions here too. Your eyes closed to me by fog. Ho caricato sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello, che è Matteo Caccia, Io sono qui, il trailer del film di cui fa parte anche Fatima, di cui vi ho appena letto la storia. E il film, lo ripeto, si chiama The Dark Side of the Sun, che significa il lato oscuro del sole, ed è un non è un documentario, è proprio un film. Il regista si chiama Carlo Hinterman, è stato girato in questo posto negli Stati Uniti di cui racconta Fatima, ed è pieno quindi di ragazzini più o meno giovani che partecipano a questo campo. Non saprei dire quante settimane esattamente sono, se è una settimana o due. È un film bellissimo comunque, che vi consiglio di vedere. Non credo sia così semplice in realtà, perché non credo sia distribuito nei cinema, e so che questa mattina è stato proiettato proprio perché è la giornata delle malattie rare, ed è un film che è in parte di immagini e in parte invece di illustrazioni, per cui nel trailer ci sono spesso immagini di cartoni, proprio di cartoni animati, perché è come se venissero raccontate due fiabe insieme. 349-238-6666, oppure per vedere il trailer, Matteo Caccia, Io sono qui, che è il profilo Facebook del programma. Sono arrivati alcuni messaggi che giustamente raccontano a modo loro la loro vita al contrario, senza dover per forza viverla di notte, al contrario rispetto al giorno. Vabbè, io sono l'unico che vive a Milano e lavora fuori Milano. Questi sono quelli che quando sei in coda in autostrada e li vedi andare dall'altra parte, dici: ma dove sta andando? Sta andando a lavorare. E poi ancora Sabrina, lavorare in aeroporto ti salva la vita. Vai in vacanza quando gli altri lavorano, lavori quando gli altri riposano, ma sei felice. Beh, Sabrina, contenta tu. Dopo 18 anni che mi scelo drink di notte e che pranzo alle 4 del mattino, penso che quella di giorno sia la vita al contrario. Stefano, 18 anni sono tanti. Vuol dire che praticamente da quando hai cominciato, vabbè, non dici quanti anni hai, però effettivamente io ho un cugino che ha un bar, e lo vedo sempre tipo alzarsi all'una con due occhi così, ed effettivamente probabilmente lui ha la sensazione che io vivo al contrario. E ringrazio Mario che finalmente si firma e mi dice: Barisoni, la mia vita finanziaria va al contrario, compro quando c'è da vendere e vendo quando c'è da comprare. Dov'è Sebastiano, potete chiamarlo un attimo? Adesso, guarda, Sebastiano, diamo il numero a Sebastiano di questo Mario, lo chiama direttamente a casa, così Mario è contento e soprattutto gli dice che Barisoni è in onda alle 17, non prima, va bene. Poi arriva un messaggio che non capisco moltissimo, cioè lo capisco, ma non, nel senso che riesco a leggerlo, ma non lo capisco molto, e mi scrive: ma Fatima non può andare ad abitare oltre il circolo polare artico? Allora, a parte che, primo, al circolo polare artico, se il problema è la luce c'è, delle volte c'è di più di quanto non ci sia in estate, praticamente il giorno è infinito. Però, soprattutto, leggo uno strano sapore retoricamente razzista in questo messaggio. Cioè, è un po' come dire: vabbè dai, qui non puoi stare, fai una roba, vai al circolo polare artico. Oppure come a dire a una persona che è in sedia a rotelle: vabbè, tu vivrai al pian terreno, no? Altrimenti come fai a salire al primo piano? Forse mi sbaglio, se mi sbaglio scrivermelo. Però in queste 10 parole che mi hai mandato ho un po' sentito quel sapore lì. E poi Pietro da Torino mi scrive: sono dipendente da 6 anni dall'eroina e a 29 anni conduco una vita che è l'esatto contrario di come gli altri pensano che io la viva. Tutti mi vedono come un ingegnere super affermato nel mondo del lavoro, come una sorta di genio, mentre solo io conosco l'inferno che ho dentro. Non sempre le vite vissute al contrario danno soddisfazione e felicità. Pietro, lo immagino, soprattutto perché leggo il tuo messaggio e soprattutto perché l'eroina è una droga di cui non si parla più, e invece è sbagliato, credo. Pietro, non so, forse è retorico anche questo, però se hai voglia di scrivere una pagina di qualsiasi cosa tu voglia parlare, non per forza la tua dipendenza, non lo so, se hai voglia fallo, se no niente, va bene così. Voi siete qui, @radio24.it. Quando abbiamo letto la storia di Fatima, ci è venuta in mente una storia che sembra non c'entrare nulla con la notte e il giorno, con la vita al contrario, e in realtà l'abbiamo scelta perché non siamo totalmente degli imbecilli, e prima Tiziano mi ha spiegato il perché. Perché di fatto questa storia qua, che io ho letto alle scuole superiori, alle medie forse addirittura, e me la ricordo bene perché mi ricordo la sensazione di straniamento che ebbi quando la capii, perché all'inizio ovviamente non la capii, la dovetti leggere almeno 2 o 3 volte, ed è un racconto, ed è quello che fa la letteratura in sostanza, no? È quello di farci mettere nei panni degli altri, perché Fatima durante la telefonata dice proprio: il problema è che non mi capiscono, cioè quando vado a chiedere un lavoro e mi vedono e vedono che sto bene, non capiscono che invece io ho bisogno del buio e non della luce, ho bisogno di alcune cose. Questo fa la letteratura, cioè ti fa mettere nei panni dell'altro, e questo racconto in particolar modo, che si chiama La Sentinella, ed è una sorta di science fiction, di storia ambientata in un futuro misterioso, fa esattamente quella cosa lì, lo fa così bene che alla fine sei totalmente spiazzato. Era bagnato fradicio, coperto di fango, aveva fame e freddo, ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una luce gelida, azzurra, e la gravità, doppia di quella a cui era abituato, faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare, finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, mostri ripugnanti. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango, aveva fame, freddo, e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto. Lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero rabbrividire. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo 2 braccia e 2 gambe, e quella pelle d'un bianco nauseante, senza squame. Perché probabilmente sto diventando sordo. 349-238-6666. E Paolo Corleone mi ha parlato nella cuffia e la voce era altissima, ma chi se ne frega di tutto ciò. Ambra invece mi scrive su Facebook: ciao Matteo, io soffro di una malattia di origine autoimmune che si chiama malattia di Crohn, che credo si chiami anche morbo di Crohn, se non sbaglio. In poche parole, il mio sistema immunitario, che dovrebbe proteggermi, si attacca da solo a livello dell'intestino, che è praticamente come se facesse esattamente al contrario, cioè invece che proteggere attacca, più o meno una cosa del genere. Più o meno la conoscevo e spero che ci sia una soluzione, anche se non lo so, è perché non sono Nicoletta Carbone. Fossi Nicoletta Carbone saprei dirvi tutto, ragazzi, mi spiace, sono solo Matteo Caccia e vado in onda alle 16 invece che alle 11. Alle 11. Essere o benessere? E benessere. Essere e benessere, giusto? Oscar, la mia vita è al contrario perché è mia moglie che porta a casa lo stipendio fisso. Questa, Oscar, è un'ottima osservazione. C'è gente che si uccide piuttosto che farsi portare a casa meno soldi della moglie. C'è gente che proprio non lo accetterebbe mai. Io vorrei tanto avere una moglie che porta a casa i soldi e io non devo parlare per 45 minuti. Sono contento, sarei contento io. Tu pensa quanto sarebbero contenti quelli che ascoltano. Matteo, ti seguo anche quando sono in Senegal. Il problema di Fatima mi ricorda quando soffrivo di prurito diffuso e tutti mi dicevano che è tutto nella testa. Senza cercare di capirmi, al lavoro avevo facoltà di fermarmi solo quando staccavo. Grazie Issa, che credo sia un nome maschile, Issa. No? Immagino di sì. E tra l'altro questa storia mi racconta, vabbè, riferimenti miei sono sempre quelli, mi ricorda la storia di Nanni Moretti in Caro Diario, in cui lui ha questo prurito diffuso che poi in realtà è una malattia vera e propria, e va dai dermatologi e gli dicono: no, questa è una cosa che dipende da lei, sta nella sua testa, non è una cosa. A parte che il 90% della dermatologia non si capisce cos'è, sta sempre nella testa di chi ce l'ha. E a un certo punto lui dice: oggi il medico ha detto che dipende da me, solo da me, esclusivamente da me, e se dipende da me so già che non ce la farò. Sono Marcello e vorrei solo sapere se... Scusa un attimo, non capisco questo messaggio. Ah, ok, sono Marcello. Ah, questo è il messaggio fuori contesto, lo leggo per quello. Sono Marcello, vorrei solo sapere se il numero è giusto, perché scrivo sempre e non ricevo mai un segno. Marcello, il numero è giusto. 349-238-6666. Forse se non ricevi mai un segno, un motivo ci sarà, ma non dipende da me e non lo conosco. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e soprattutto a Fatima. Oggi la storia era la sua e parlava di vivere alla rovescia. La storia di domani, invece, è la storia di Luigi e parla di carceri. Alzo lo sguardo dai miei piedi e vedo che sulle pareti del corridoio, a distanza di una trentina di metri l'uno dall'altro, c'è una lunghissima fila di orologi tutti uguali. Io ne conto 9, per la precisione, e nessuno di questi segna l'ora esatta. Le 7.35, le 4.48, le 6.30, le 9.15.